nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Eh sì, i nostri soldi sono una cosa talmente seria che oggi parliamo di un provvedimento molto serio che non è più solo sulla rampa di lancio, caro Mauro, ma in realtà è una realtà pronta a partire dal 1 dicembre. È possibile per le famiglie in condizioni economiche difficili presentare la domanda per il REI, reddito di inclusione. Sì, il cosiddetto REI, appunto, familiarizziamoci subito con questa sigla, cara Deborah, perché poi ci capiterà di doverla usare. Per fare prima, sostituisce una misura che era più sperimentale, va a regime questo che si chiama appunto reddito di inclusione, perché prevede non solo il sostegno alle famiglie in difficoltà, ma anche delle misure che dovranno accompagnare l'erogazione di questi importi per appunto migliorare l'inclusione sociale, che significa dare delle opportunità lavorative, delle opportunità formative. Dovranno essere poi le autorità sul territorio, i comuni, insomma, ad attivarsi, ad accompagnare questi nuclei familiari in difficoltà. Quindi una misura di contrasto alla povertà che ha un senso molto più ampio. Non si tratta solamente di un contributo economico, ma di qualcosa di molto più significativo. Ed è proprio su questo aspetto che ci soffermeremo questa mattina con un bel gruppo di ospiti che fra un po' vi andremo a presentare. Però forse vale la pena anche ricordare, Mauro, che ieri da Roma sono arrivate anche altre notizie che non abbiamo ancora certificate in provvedimenti che a te piacciono tanto, altrimenti te li saresti portati nero su bianco, appunto, allora, e ce li avresti snocciolati. Fa tutto parte, come ti dico sempre, cara Deborah, come vi dico sempre, fa tutto parte del grande minestrone del disegno di legge di bilancio. Però questo ingrediente qua, per una volta tanto, ci piace, noi speriamo, insomma, che lo portino a casa definitivamente. Nel minestrone si è aggiunta questa verdura che è gradita, un fondo da 60 milioni in 3 anni per chi assiste i familiari malati, il cosiddetto caregiver, diciamo chi si prende cura del parente bisognoso, la persona che assiste, si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile e così via. C'è tutta la descrizione di questo, che è ancora un emendamento, è lì che bolle sul fuoco del dibattito parlamentare e poi arriverà, insomma, a cottura quando saremo verso Natale. Intanto, siccome il REI invece è ben cucinato, direi oggi di raccontarlo per bene ai nostri ascoltatori, quindi drizzate le antenne, soprattutto se siete a conoscenza magari di famiglie, di persone che hanno bisogno di questo contributo e di un'operazione di reinserimento sociale nel circuito lavorativo. Allora, chi sono le persone che hanno diritto, quali requisiti bisogna soddisfare per ottenere questo contributo? Tutti argomenti che affrontiamo stamattina, quindi potete chiamarci all'800 024 0024, scriverci al 349 238 6666, riceviamo i vostri sms, i vostri messaggi su WhatsApp, ci potete scrivere su Facebook, siamo in diretta sulle social network, ci potete scrivere anche a duedidenari@radio24.it. La misura del REI, la partenza ufficiale, è stata presentata ieri a Milano in un'iniziativa, in un incontro con la stampa, dove c'erano il ministro del welfare Giuliano Poletti, il presidente dell'INPS Tito Boeri. Abbiamo raccolto due parti del loro intervento. Cominciamo allora con il sentire il ministro Poletti, che parla di un passo importante per una strada che però è ancora un po' lunga. Credo che vada considerato come un passo importante per una strada che è ancora lunga e che potrà realizzarsi solo sulla base di una grande e intensa collaborazione tra un arco molto largo di soggetti. Se c'è qualcuno che pensa che questo sia un tema che si può risolvere da parte del Ministero piuttosto che da parte del Comune, da parte di un'associazione piuttosto che, beh, credo che ognuno di noi commette un errore gigantesco. Essendo la prima esperienza che realizziamo, noi dobbiamo essere consapevoli che può mostrare dei limiti. Col presidente Boeri abbiamo anche convenuto di fare un reporting, quindi dare un report trimestrale su questa misura, in modo tale che tutta la comunità sia in grado di sapere che cosa sta accadendo. Allora, tutta la comunità è chiamata in causa direttamente anche l'INPS, che avete sentito evocato appunto citato dallo stesso ministro Poletti, il presidente dell'INPS pure Tito Boeri, presente ieri alla presentazione di questa misura, di questo REI. Allora ascoltiamo che cosa ha detto, come ha definito Boeri il reddito di inclusione. Molto importante quello che oggi viene presentato, è una svolta epocale per il nostro paese, il fatto che venga introdotta finalmente una misura nazionale di contrasto alla povertà. Sarà ancora più significativa da luglio, quando verranno rimosse quelle condizioni categoriali, e diventerà davvero una misura che sceglie i beneficiari sulla base di una verifica unicamente delle loro condizioni reddituali e patrimoniali. Allora, andiamo a scoprire i dettagli di questa operazione. Tra l'altro l'INPS proprio ieri ha fatto circolare le prime istruzioni, alcuni chiarimenti di natura amministrativa. La circolare, guarda che oggi sono pronta anche con i numeri, la circolare INPS è la numero 172. Mi dai 172. Delle grandissime soddisfazioni, so che ti Deborah. Piacciono i riferimenti, sei ossessionato dai numeri precisi di tutti i provvedimenti. In questo caso, ribadisco, parliamo di una circolare INPS che contiene tutti i chiarimenti del REI. Allora, questa circolare ricorda molto bene che gli aiuti inizieranno ad arrivare il 1 gennaio dell'anno prossimo, ma le domande si possono già fare a partire da questo venerdì, dal 1 dicembre. Bisogna essere in primo luogo in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità. Quindi questi intanto sono i tre capisaldi di tutta l'operazione, poi viene tutto il resto. Buongiorno e grazie per essere con noi Raffaele Tangorra, direttore generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro, benvenuto. Buongiorno. E salutiamo anche l'amica che è in studio con noi. Certamente, Francesca Barbieri, collega del Sole 24 Ore, nonché sempre esperta, segue da sempre i temi legati al lavoro e all'inclusione anche in questo senso. Quindi il REI fa parte di quelle che genericamente possiamo definire politiche attive. E allora, giustamente Francesca, che anche ieri sul Sole 24 Ore appunto ha presentato questa misura, ha anticipato alcuni dettagli di questa misura del REI, parlando anche dell'ISEE, perché abbiamo introdotto anche questa parolaccia. Allora, ricordo per chi ancora non fosse familiarizzato con questa sigla, l'indicatore della situazione economica equivalente non è il reddito, è importante capire questo, è un insieme di disponibilità del nucleo familiare che comprende anche il reddito, ma comprende anche il possesso di eventuali immobili, comprende i depositi bancari, comprende gli investimenti, insomma si chiama appunto ISEE con le due E, indicato la situazione economica equivalente. Tutto ciò premesso, andiamo a scoprire il REI. Esatto, dottor Tangorra, allora cominciamo con lei, perché tra l'altro abbiamo a disposizione la sua presenza solo per un quarto d'ora, per cui la vogliamo spremere fino in fondo. L'obiettivo del reddito di inclusione, il Ministero del Lavoro nelle sue istruzioni sul sito lo dice molto chiaramente, è un beneficio economico per famiglie in difficoltà e viene erogato tramite una carta prepagata che sarà emessa appunto da Poste Italiane. Quindi intanto le tecnicalità con cui bisogna prendere confidenza e su cui punterete, quali sono, dottor Tangorra? Sì, innanzitutto dove si fa domanda? La legge prevede dei punti per l'accesso al REI che dovranno essere attrezzati dai comuni. Adesso la legge prevede un certo lasso di tempo perché questo accada, quindi a partire da venerdì il lancio ufficiale, però c'è tempo evidentemente tutto il mese per le erogazioni che partiranno a gennaio, ma non è più una misura sperimentale, è una misura che entra nell'ordinamento del paese, quindi si può fare domanda quando si vuole nel corso dell'anno. Quindi dicevo, i comuni attrezzeranno dei punti per l'accesso al REI. E questo è un elemento importante, questo dell'accesso alla prestazione, perché non sempre quelli che hanno diritto alle prestazioni poi fanno effettivamente domanda. Quindi proprio bisogna... perché sono marginalità molto spesso, no, dottor Tangorra? Per cui chi meglio dei comuni, delle amministrazioni comunali può conoscere la propria realtà territoriale, quindi anche abbastanza naturale che siano quelli i punti di riferimento. Esatto, diciamo, si è scelto il punto più prossimo al cittadino, il comune è esattamente il punto più prossimo al cittadino. In realtà abbiamo avuto nel corso dell'ultimo anno il SIA, il sostegno per l'inclusione attiva, una misura ponte che il governo ha varato nel mentre si discuteva in Parlamento della legge sulla povertà. Ecco, penso che quasi tutti i comuni si sono orientati per una continuità, quindi chi ha fatto domanda per il SIA probabilmente potrà fare domanda per il REI nel medesimo posto dove ha fatto domanda per il SIA. Allora, non saranno soldi contanti, questo è importante, esatto, chiarirlo. Sì. Perché sì, poi uno magari si immagina che gli arrivino dei soldi sul conto corrente o gli vengano dati dal comune materialmente dei contanti. Non è così. Non è così. Diciamo, il modo più efficiente per far arrivare i soldi ai cittadini, anche a quelli in difficoltà, si è dimostrato negli ultimi ultimi anni quello di fargli arrivare una carta di pagamento, una carta quelle che siamo abituati a utilizzare, diciamo. Sì. Come un bancomat. Che avrà anche questa funzione, questo dobbiamo ricordarlo, perché a differenza della prepagata precedente, no, della carta acquisti, rotor tangorra, questa mi pare di aver capito consentirà anche di fare dei prelievi per avere del contante in mano. Questa è una novità importante, perché gli strumenti che abbiamo usato fino ad adesso, a partire dalla social card e col SIA, non abbiamo modificato, permettevano solo l'acquisto di alcuni generi, i generi alimentari in particolare, però anche prodotti farmaceutici e il pagamento delle bollette presso gli uffici postali. Però quello che è emerso in questi anni di sperimentazione è che spesso c'è bisogno anche di contante, ad esempio per pagare l'affitto, no? E quindi c'è una novità importante per il REI, per cui fino a circa 250 euro sarà possibile prelevare dalla carta. La carta, diciamo, viene inviata a casa e poi dovrà essere attivata con un PIN. Benissimo, saranno erogati degli importi che sono commisurati al numero di componenti del nucleo familiare. Do questi riferimenti minimi e massimi: con un nucleo il beneficio massimo mensile ottenibile è 187,50 euro, per 5 componenti il beneficio 485,41 euro, quindi sono importi che rappresentano, però non sono importi enormi, come potete capire, sono importi che rappresentano però solo una gamba, solo un pezzo di questa misura, perché l'altra parte, dottor Tangorra, è quella appunto di attivare delle politiche di inclusione, che vorrebbe dire in concreto? Sì, allora, prima di passare alle politiche di inclusione è importante chiarire che questi sono massimi, cioè queste risorse, come le ha indicati, sono i massimali del beneficio, peraltro il massimale per le famiglie numerose da 5 o più viene incrementato in legge di bilancio, nella proposta di legge di bilancio c'è un incremento del 10%, quindi invece che 4,85 si tratterà di 535 euro circa. Sì. Però perché dico sono dei massimali? Perché a differenza del SIA, che è una misura insomma fissa, con ammontari inferiori però insomma fissa, cioè sì. E poi avere un ISE 0 o un ISE 2999, il beneficio è sempre lo stesso, sono 80 euro a componente fino a un massimo di 400, questa era la regola del SIA. Qui i massimali sono notevolmente superiori, a volte molto più del doppio, però si tiene conto sia di altri benefici che magari sono percepiti dal nucleo familiare, che vengono evidentemente sottratti al massimale, e poi si tiene conto anche delle risorse della famiglia, quindi prende di più chi è più lontano dalla soglia, quindi il beneficio si calcola per differenza rispetto alla soglia. Ma non è soltanto un trasferimento economico, come dicevamo, è soprattutto un progetto sui nuclei familiari in difficoltà, un progetto condiviso con i nuclei familiari, è fondamentale l'elemento di partecipazione dei nuclei familiari, bisogna tener conto, la legge qui parla addirittura dei desideri dei nuclei familiari, è un progetto che è una condizione per ricevere il beneficio, insomma bisogna anche attivarsi, impegnarsi in attività che sono sicuramente attività volte all'occupazione, alla ricerca del lavoro, però non solo, quindi non è solo la dimensione degli adulti quella rilevante in questo contesto, è rilevante anche la dimensione dei bambini, quindi bisogna fare molta attenzione ai bambini, frequenza scolastica, partecipazione alle attività scolastiche, perché è importante anche spezzare quel circolo vizioso che tende a riprodurre nei destini dei bambini la condizione di povertà dei genitori. Ma per chi non seguirà, dottor Tangorra, il cosiddetto progetto personalizzato di attivazione di inclusione sociale e lavorativa, che ha proprio l'obiettivo di superare la condizione di povertà, perde il beneficio, quindi monitorerete anche in questo senso il raggiungimento di determinati obiettivi o il mantenimento appunto di questo impegno da parte dei soggetti interessati? Sì, questo è un elemento importante, il progetto fisserà degli obiettivi, il nucleo si assumerà degli impegni, se questi impegni non vengono mantenuti ci sono delle sanzioni. Ora non si perde immediatamente il beneficio, ma sono disciplinate le sanzioni a seconda della gravità della violazione, diciamo, se uno non si presenta una volta a un appuntamento c'è una una sanzione più lieve, se uno invece, che ne so, ha barato nei dati dichiarati in maniera, come dire, plateale rispetto alla condizione economica, ci sono anche delle sanzioni pecunarie. Senta, le leggo un messaggio di un ascoltatore, poi la faccio proseguire, dottor Tangorra. Ma quanta burocrazia! Ma magari chiedo un commento anche a Franceschi in questo senso. Allora, è giusto che, come dire, vengano indicati con una certa precisione i requisiti, perché altrimenti poi non vorrei che i comuni fossero così presi di mira da tutti i soggetti che magari non hanno appunto il diritto, ma magari stando in una momentanea condizione di difficoltà ritengono anche giustamente di dover essere sostenuti economicamente. Quindi qua è chiaro che è corretto stabilire delle regole stringenti, ma secondo te è molto impegnativo il processo per ottenere questo contributo? Beh, insomma, viene previsto che comunque ci si debba recare in comune al punto di accoglienza, per cui questo sicuramente agevola le famiglie in difficoltà, perché comunque è sul territorio. È chiaro che devono presentarsi con un ISEE valido e poi lì essere accolti, e si parla proprio di un'equipe multidisciplinare che appunto ascolta i bisogni delle famiglie e poi sulla base di questo si avvia il percorso. Però sta molto anche al comune dare supporto, no, nei confronti di queste famiglie, perché poi la richiesta viene trasmessa all'INPS. Ci sono poi una serie di tempi da rispettare per appunto avere il via libera. Però insomma non mi sembra niente di particolarmente... Diciamo che è sempre difficile in questi casi. Noi abbiamo visto crescere molto, e con questo rispondo magari anche a qualche SMS o messaggio un po' più pepato e critico. Ah sì, esatto, le mancette elettorali, quello che... Sì, ecco, volete. Allora qui il problema non è che si voti o non si voti, qui il problema è che noi abbiamo visto negli anni della crisi schizzare verso l'alto la quantità di famiglie, di persone che sono finite sotto la soglia di povertà, sia relativa sia assoluta. E allora prima o poi bisogna fare qualcosa, che questo poi si faccia prima delle elezioni, dopo le elezioni, insomma poco conta. E quello, mi sembra che la cosa più utile da chiedersi è quanto si potrà lasciare a questi nuclei e come verrà erogato, che è quello che ci spiegava Francesca. No, poi magari fossero state solamente veramente delle iniziative di natura economica, ci si sarebbe lamentato, perché non serve a niente dare dei soldi se queste persone... È come il famoso proverbio che dice: inutile che dai i soldi all'africano se non gli insegni a pescare, eccetera. Sì. Se invece c'è accanto al beneficio economico anche un'iniziativa concreta, questo famoso progetto personalizzato, allora è troppa burocrazia, non siamo mai contenti di niente. Detto ciò, noi ci atteniamo alla spiegazione di quello che c'è e vediamo poi come funzionerà. Tornare dal dottor Tangorra, Deborah, perché volevo chiedergli: ma ce la facciamo a rispettare i tempi? Perché c'è Natale di mezzo. E che facciamo con il SIA? Perché questa misura sostituisce il SIA, quindi chi già stava nel SIA, si chiamava sostegno di inclusione attiva, chiedo scusa, stamattina è tutto un diluvio di sigle, quindi riusciranno i comuni ad attivarsi? Com'è il territorio, la ricettività del territorio? Beh, diciamo che il SIA ha preparato il terreno, ecco, non da questo punto di vista la gran parte dei beneficiari del SIA sarà anche nelle condizioni di essere beneficiario del REI, e inizialmente le platee non sono molto diverse. Questo è un elemento importante su cui magari soffermarsi qualche minuto. Sì. Inizialmente, diciamo, per chi avrà il beneficio a partire da gennaio, la platea assomiglia a quella del SIA, nel senso che sono i nuclei familiari, soprattutto i nuclei familiari con figli minorenni. Poi ci sono anche i nuclei con figli maggiorenni se disabili e i nuclei con donne in stato di gravidanza, cioè con figli in arrivo. Sì. E questo era il panorama dei beneficiari del SIA. Con il REI si allarga anche ai nuclei con un disoccupato ultra 55enne a partire da gennaio, ma nella legge di bilancio in discussione in questo momento, in votazione in questo momento al Senato, si allarga già da luglio, dal primo di luglio, a tutti i nuclei familiari. Quindi la misura diventa, da una misura a vocazione universale, come mi capita ogni tanto di chiamarla, a una misura davvero universale, cioè una misura che riguarda tutte le famiglie in condizioni di povertà, per come definite nel decreto. Quindi il territorio è pronto. Ecco, questo anno ha assaggiato il SIA, per cui da questo punto di vista inizialmente perlomeno la gran parte dei beneficiari sarà già conosciuta dai servizi e quindi opererà in continuità con il SIA. Ovviamente non sarà pronto per il progetto personalizzato così come lo immaginiamo, un progetto, cioè, che è fatto in rete con tutti i servizi territoriali, i centri per l'impiego, la ASL per chi ha problemi sociosanitari, la scuola per i bambini, gli enti di formazione e così via. Ma soprattutto lo immaginiamo un progetto che coinvolga le forze vive della comunità, il territorio, diciamo, inteso non solo col terzo settore, cioè col no profit, inteso anche con le forze produttive, le imprese, perché evidentemente un percorso di questo tipo si fa anche coinvolgendo le imprese e le parti sociali in generale. Il ministro l'ha detto più volte. Dottor Tangorra, solo perché tra un po' deve salutarci, ma le volevo, anche riferendomi al commento che ha fatto prima Mauro sullo sforzo che stanno sostenendo le amministrazioni comunali, se dopo il SIA sono più o meno pronti anche a far partire questa seconda fase, un ascoltatore ci scrive, noi abbiamo i nostri reporter sul campo, un ascoltatore ci scrive: lavoro come sistemista in un comune del sud, sto andando a preparare il front desk per il REI, il problema, la scarpetta elettrica, il mouse che non c'è, i comuni saranno anche vicini ai cittadini ma non possono sobbarcarsi tutti i costi, probabilmente qualcuno è più pronto di qualcun altro sul territorio, li sosterrete anche in questo senso oppure non è vostro compito, dottor Tangorra, non è compito del Ministero del Welfare? No, questa mi fa piacere questa domanda, perché è una novità importante del REI rispetto al SIA, che questi principi sperimentalmente li avevamo già testati con il SIA, però senza trasferire risorse ai comuni. Invece una novità importante del REI è che il progetto personalizzato e le attività connesse al progetto personalizzato sono livelli essenziali delle prestazioni e quindi sono finanziate. Quindi trasferiremo ai comuni già dal prossimo anno una quantità di risorse molto rilevante, circa 300 milioni di euro, che cresceranno. Adesso si sta discutendo in Senato anche un emendamento che porta oltre 400 milioni di euro da trasferire ogni anno ai comuni per le attività connesse al REI, e in più c'è il Fondo Inclusione, risorse del Fondo Sociale Europeo cofinanziate dallo Stato, che quest'anno stiamo erogando per tutto il rafforzamento della parte, diciamo, gli assistenti sociali e i centri per l'impiego, quindi la parte più di professionalità coinvolte nella presa in carico delle famiglie. Molto bene, dottor Tangorra, sì. Ringraziamo per queste spiegazioni. Naturalmente, dottor Tangorra, lei consideri che qui ci sarà da fare uno sforzo di comunicazione, di spiegazione, anche la prima inclusione sarà quella di far sapere a chi è bisognoso che può utilizzare questo strumento e quali sono i limiti, quindi sicuramente torneremo a cercarla. Magari fra una quindicina di giorni, perché no, dopo la partenza vedremo se in due settimane, insomma, come i comuni hanno gestito le prime pratiche in arrivo. Grazie per essere stato con noi, buona giornata. Se posso chiudere? Sì. Certo. Dunque, allora, è importante anche chiarire che è un percorso che parte e a questo punto entra nell'ordinamento del Paese, quindi non aspettiamoci che i primi 15 giorni funzioni tutto. Diciamo, l'importante, adesso pensi a grandi riforme come quella Obamacare negli Stati Uniti, diciamo, non è che ha funzionato tutto nei primi mesi in cui la riforma è stata lanciata, quindi dobbiamo, come dire, essere anche pazienti e dare il tempo a politiche di questo tipo, che sono politiche epocali, certo, che cambiano la storia di un paese, di potersi, come dire, di spiegare, esatto, attrezzare al meglio rispetto alle finalità previste dalla norma. Assolutamente, grazie dottor Tangorra. Grazie. E allora, presto. Deborah, siamo veloci. Al tuo momento. Andiamo. Le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Dollari, euro. Anche se sono euro va bene uguale. Esatto. Ecco. Tante domande allora sui requisiti per ottenere il reddito di inclusione sociale. Ci stanno scrivendo, per esempio, c'è una mamma single con due figlie senza lavoro, chiede se ha i requisiti, ma ce ne sono anche altri. Vogliamo sentire subito Donatella da Bari prima di introdurre anche il nuovo ospite? Volentieri. Stavo Donatella, buongiorno. Donatella, lei aveva una domanda molto interessante. Sì, prego. Volevo sapere se recependo questo tipo di assistenza nuova, perché non ho fatto neanche la SIA, quindi questa è la prima volta. Volevo sapere se l'assegno dei tre figli tocca qualcosa su quest'altro tipo di assistenza, cioè che io già prendo. È per i figli, quindi. Sì. Ma lei lavora e quindi sono gli assegni al nucleo familiare che sì, prende? Sì, sì. Ho capito. Va bene, grazie Donatella. Allora, Francesca, vogliamo ricordare cumulabilità, non cumulabilità dei vari altri aiuti che sono per categorie diverse, perché ci sono gli assegni per la disoccupazione, ci sono gli assegni al nucleo familiare, ci sono eccetera eccetera. Però la signora lavora, tra l'altro. Però la signora lavora, esatto. Allora, quindi bisognerà prima verifica. Allora, la prima economica verifica, intanto, vabbè, oltre ai requisiti di residenza, cioè il fatto di essere residente in Italia da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda, i requisiti familiari, che fino alla fine di giugno sono la presenza di un minorenne, la presenza di un disabile, la presenza di una donna in stato di gravidanza, oppure la presenza di un componente del nucleo familiare che abbia almeno 55 anni di età e si trovi in stato di disoccupazione. Ovviamente non devono sussistere tutti, uno di questi ci deve essere. Ci sono poi i requisiti economici, quindi serve un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro, un valore ISRE, che è l'indicatore reddituale dell'ISEE, che non deve essere superiore a 3.000 euro, un valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non superiore a 20.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare, quindi depositi, conti correnti bancari, non superiore a 10.000 euro, che è ridotto a 8.000 euro per la coppia e a 6.000 euro per una persona sola. Ma non è finita. Caspita. Perché per accedere al REI è necessario che ciascun componente del nucleo familiare non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego, cioè che non stia riscuotendo la NASPI, che è appunto l'indennità di disoccupazione, sostanzialmente. Fondamentale il requisito di non possedere barche o navi. Esatto. questo è fondamentale precisarlo. Vabbè, ridiamoci un po' su. E nemmeno auto o moto immatricolate per la prima volta nei 24 mesi. Due anni prima della richiesta. Della richiesta. Vabbè, sì. Ammettiamo che insomma le persone a cui la misura è destinata, immagino che la barche soglia, o navi. Ha visto mai che. La soglia effettivamente è molto bassa, no, Francesca? Cioè, noi diciamo che la scelta del REI, come già era stata quella del SIA, del sostegno per l'inclusione attiva, che il REI sostituisce, è quella di intervenire sulla cosiddetta povertà assoluta. Esatto. Cioè sono vicende di emarginazione che, per quanto abbiamo potuto comprendere dalla signora, dall'ascoltatrice che ci ha chiamato, difficilmente possono riguardare chi un lavoro fortunatamente ce l'ha e percepisce quindi anche gli assegni al nucleo familiare, quelli restano e poi non hanno. Possiamo considerare che in Italia l'Istat ha certificato 1.600.000 famiglie in povertà assoluta. Adesso, quando il REI diventerà una misura universale, quindi dal 1° di luglio, quando vengono meno tutti i requisiti, diciamo, di categoria, quindi potranno beneficiarne coloro che hanno i requisiti economici, l'obiettivo è raggiungere circa 780.000 famiglie. Quindi arriveremmo, diciamo, intorno alla metà, esatto, di quanto è stimato dall'Istat, mm-hmm, per famiglie bisognose della. Questo nel 2018, poi a partire dal 2019 gli stanziamenti a disposizione aumenteranno e quindi insomma l'obiettivo è incrementare sempre di più la quota dei beneficiari. Allora, i comuni si stanno attrezzando, lo dicevamo prima, naturalmente qualcuno con qualche ancora lacuna di natura tecnica da sistemare in quest'ultima ora, ci raccontava questo nostro amico che ci ha scritto prima, sta allestendo proprio il front desk per partire con il REI, ma anche ai CAF non si scherza, caro Mauro, ai centri di assistenza fiscale stanno, ci mancherebbe altro, sono nati pronti, perché loro già da tempo, gestendo appunto l'altra misura di natura sperimentale di cui parlavamo prima, il SIA, appunto, sono pronti anche per gestire, immaginiamo, tutte le pratiche REI. Dino Giornetti, CAF CISL Area Fiscale, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. È così, allora siete pronti? Cosa immaginate potrà succedere nei prossimi giorni anche ai vostri sportelli? Quali domande saranno le più gettonate da parte dei potenziali candidati ad ottenere, a percepire questo contributo? Sì, siamo pronti, abbiamo già raggiunto nel 2017 5.800.000 dichiarazioni ISEE, quindi 5.800.000 nuclei familiari. C'è già grandissima attenzione sul REI e, come anticipato, la condizione economica diventa fondamentale per l'accesso e l'informazione da dare alle famiglie, perché molto spesso le famiglie non sono in grado di gestire tutti i tecnicismi, quindi come CAF ci mettiamo in campo per dare le informazioni ai possibili beneficiari. Molte misure sono sottostimate dal punto di vista della popolazione, molti non riescono a raggiungere, soprattutto famiglie bisognose, non riescono a raggiungere le informazioni necessarie per accedere al servizio. L'ISE diventa elemento sostanziale per misurare la situazione economica della famiglia. Da ricordare che l'ISE ha diversi indicatori per l'accesso al REI. In caso di presenza di figli minorenni dovrà essere richiesto l'ISE minorenni, altrimenti potrà valere l'ISE ordinario o l'ISE corrente nel caso in cui una persona del nucleo familiare abbia perso il lavoro negli ultimi 18 mesi. Da ecco, dire però, che la condizione sì. Sì, no, la interrompo sull'ISE perché l'ISE ha una validità annuale, se non ricordo male. Corretto. Quindi chi avesse già un ISEE pronto, che deve fare? Deve rifarlo nuovo? Quando scade? No, non c'è bisogno. Se un nucleo familiare, l'ISE ad oggi scade il 15 gennaio dell'anno successivo, quindi l'importante del consiglio un po' per tutte le prestazioni che non vanno a rinnovo nella domanda ma solo a verifica dei criteri economici, avere sempre un ISE in corso di validità. Quindi innanzitutto il consiglio generale è riuscire ad avere sempre un ISE valido, visto che vale un anno. Quindi dopo il 15 gennaio, comunque dal 1 gennaio 2018, presentare un nuovo ISE. Nel caso in cui si abbia già un ISE 17 valido, è possibile presentare direttamente la domanda al REI tramite il comune, come prima avete già discusso chiaramente, mentre nel caso in cui si dovesse avere il beneficio nel 17, quindi nel mese, e poi nel 18 fare subito un ISE nuovo entro il primo trimestre, questo è fondamentale, ricordando entro marzo 2018 per avere la continuità del beneficio. Va bene, grazie dottor Giornetti, resti lì perché noi ci fermiamo qualche istante, continuate a scriverci, a telefonarci, a mandarci email, sempre ai numeri soliti 800 24 00 24, 349 238 6666, per se volete mandare sms o whatsapp. Adesso traffico. Due di denari. Una monetina a te, una monetina pure a te, così fanno tre, una monetina per questa sera. Eh sì, qualcuno le percepisce proprio così, solo poche monetine, ma vi possiamo assicurare che chi ha dei redditi molto modesti o che addirittura non le percepisce da un po' perché non trova lavoro per tante altre ragioni, queste poche monetine fanno la differenza. Dino Giornetti con noi, insieme a Francesca Barbieri del Sole 24 Ore, stiamo spiegando di nuovo i requisiti per poter fare richiesta a partire da venerdì prossimo del REI. La misura poi entrerà ufficialmente in vigore dal 1 gennaio, nel senso che comincerà già ad essere erogata per chi fa la domanda il primo, dal 1 gennaio. Adesso non so, i tempi saranno così corretti, Giornetti, così idealmente entro quanto, una volta fatta la domanda, si avrà una risposta se si ha l'ok, il diritto ad ottenere il contributo, e poi quando avverrà l'erogazione allora, proprio concreta? Sì. Sì, mi leggo anche alla battuta del direttore del Ministero, nel senso che siamo all'inizio. L'INPS, con circolare molto chiara del 22 novembre, ha chiarito le modalità tecniche e i modelli di domanda per accedere al beneficio. Tecnicamente il sistema prevede anche per il 2018 la conferma, viene slittata, come dicevamo prima, non è solo una prestazione economica collegata all'indicatore, ma c'è una sottoscrizione di un piano con la famiglia che dei beneficiari, per il 2018 è slittato, quindi si presume che entro un 30 giorni dal momento della richiesta possa essere gestito direttamente il beneficio, con la possibilità comunque di fare la richiesta sempre, le prestazioni durante tutto l'anno. Il mese successivo dovrebbe in prima istanza essere accreditato direttamente sulla carta REI il beneficio. Allora vorrevo sentire Elisa da Verona, perché ci presenta un caso che poi non è così peregrino, esatto, cioè sono cose che poi vediamo tutti i giorni. Buongiorno Elisa, ci dica. Buongiorno, io telefono per un mio, delle persone che conosco, sì, che non hanno l'ISE, cioè sono in condizione di totale povertà, e in tutte le cose, che benefici, domande che avrebbero potuto fare, non avendo l'ISE erano escluse, cioè sono persone totalmente povere. Ma cosa devono fare? Marco, non hanno l'ISE perché non l'hanno mai... Cioè lavoro, è una situazione un po' strana che non sto a descrivere, sì, ma questa persona non ha l'ISE, e ogni volta che si va, o l'assistenza sociale, non hanno diritto a niente. Hanno un ragazzo che vive alle spalle di una zia, che è l'unica persona che lavora, ha tre figli, e non ha nessun beneficio né a scuola, niente di niente, perché ti dicono deve presentare l'ISEE. Lui non ce l'ha. Cosa deve fare? Allora, invisibile. Giriamo la domanda a Giornetti, direi, ma com'è possibile che non venga erogato materialmente un ISEE? Cioè, esistono dei casi in cui può essere negato in qualche modo un ISEE? Assolutamente no, l'ISEE è un atto volontario, ci sono delle condizioni basilari, ovvero la residenza in Italia, quindi non vedo nessun problema. L'ISEE viene dato in assistenza gratuitamente dei CAF, può essere predisposto anche attraverso... Scusi se le sottolineo il gratuitamente, quindi sì, è importante, vista la platea. Esiste una convenzione tra INPS e CAF per dare questa assistenza e i CAF hanno operato la quasi totalità delle DSU, questi 5.800.000 nuclei familiari assistiti, quindi non vedo nessuna difficoltà a dire alla signora di consigliare di andare a un CAF per vedere se ci sono altri limiti. A volte accade che la famiglia povera si appoggia anagraficamente ad altri parenti all'interno dello stesso nucleo familiare, che porta ad avere un ISEE più alto perché vengono considerati tutta la famiglia anagrafica del nucleo. Poi ci sono determinate condizioni che ne permettono l'estrapolazione, però direi che non consiglierei di andare velocemente a un CAF, perché cosa interessante della carta REI, come già menzionato dalla norma, che oltre al beneficio REI potranno essere inseriti ulteriori benefici. Probabilmente il bonus gas potrà essere goduto direttamente facendo domanda della carta REI, così come l'assegno al nucleo familiare numeroso, non dovrà più essere fatta una domanda parallela al REI, visto che è concesso dal comune, ma verrà direttamente erogata su carta REI. Io vorrei fare uno spunto di ottimismo, Deborah. Speriamo. Mettiamo che il nucleo familiare sia in condizione adesso di ottenere il REI, ma poi le condizioni cambino. Si trova un lavoro migliore, meglio pagato. Questo percorso di inclusione il superenalotto, tutto quello che volete. Che succede? Cioè si decade immediatamente dai benefici, bisogna restituire, ci sono sanzioni? Come la restituzione, Mauro, non è anche evocarla. Uno chiede sempre, chiedere prima. Veramente. Come dai Giornetti, il consiglio in caso di modifiche degli elementi economici che permettono una migliore situazione economica del nucleo familiare, di presentare nuovamente l'ISEE per scontare i nuovi redditi, presumibilmente. Per come è strutturato l'ISEE, il patrimonio va al 31/12 dell'anno precedente, i redditi in due anni prima. Sì. Sarà una modifica importante da settembre, dove verranno presi, la scadenza dell'ISEE varierà ad agosto e verranno presi i redditi dell'anno prima, per essere sempre più puntuali. Però il consiglio è, in caso di migliore situazione economica, fare un nuovo ISEE, così permetterà all'INPS di verificarne sempre i requisiti economici, per poi verificare se si ha ancora il diritto o si è perso il diritto al infatti beneficio. Sì, no, Francesca sottolineava giustamente che c'è una durata massima comunque dell'erogazione del mantenimento del contributo. La durata massima è di 18 mesi. È possibile un rinnovo per ulteriori 12 mesi, però in questo caso ci deve essere una sospensione di 6 mesi. Però questo ovviamente vuol dire che andiamo a 30 mesi, quindi complessivamente. Sì, e preciso anche che chi ha beneficiato del SIA può passare al REI, però la durata complessiva deve essere comunque di 18 mesi. Sentiamo Mohamed da Mantova, se ce la facciamo prima della chiusura. Abbiamo pochissimo. Mohamed, velocissimo, grazie. Pronto, buongiorno a lei, signora. Sì. Ascolti, io avrei bisogno di qualche spiegazione, per favore. Io, premesso che sono un radioascoltatore accanitissimo di Radio 24. Grazie. Grazie. Comunque, grazie. Grazie delle spiegazioni che state dando. Vada con la domanda, perché stiamo chiudendo, vada. Ascolti, per favore, io avrei bisogno delle spiegazioni, perché io ho 61 anni. Da 5-6 anni che sono disoccupatissimo, perché praticamente mi arrangio con qualche lavoretto di qua e di là. Di qui 35 anni sono passato in Italia nel settore edile. ISEE ce l'ha, Mohamed? Esatto. Il discorso è che io adesso vorrei sapere se io, avendo anche un ISEE che non supera i 3-4 mila euro, C'ho una figlia universitaria che sta studiando ancora. Io sono attualmente, oltre alla crisi, c'è il discorso anagrafico. Grazie Mohamed, abbiamo 40 secondi, abbiamo più o meno capito. Giornetti, al volo, riesce ad avere sulla carta? Sì. Sulla carta, da quello che dice, anche ha evidenziato un importo del valore economico di 16.000 euro, potrebbe fare la verifica, quindi attraverso l'ISE, recandosi a un CAF o al comune di residenza, potrebbe fare la verifica, ma da quello che dice ha sia il requisito della disoccupazione, avendo un'età di 61 anni e un arco temporale ulteriore di 5 anni dallo stato di disoccupazione, quindi i requisiti iniziali sembrerebbero esserci. Il consiglio è di recarsi al comune per verificarne subito il primo appuntamento di Mantova di venerdì 1 dicembre, esatto. Quello con Mohamed, del sindaco di venerdì Mantova. Venerdì, esatto. Sappiano a Mantova che arriverà il nostro ascoltatore Mohamed. Esatto. Naturalmente potete anche mandarci delle email se siete incuriositi o avete domande. Due di denari, @radio24.it. Noi torneremo presto su questo argomento e su tutti gli altri. Intanto a domani, grazie a tutti, buona giornata.